il caffè. Arrivo bro, arrivo bro, stavo cercando di sistemare tutte le cose al su, pulendo pure il terrazzo, tutti mondezza, le carte, le ho prese. Vabbè, ma vieni a prenderti il caffè adesso, poi risali dopo. Ok, va bene, grazie bro, arrivo, sto venendo. Metti il tuo gufo. Metti il tuo gufo. Dove bro, mi stai chiamando? Ciao Tony. Jambo. Jambo. Hakuna makasa. Vieni giù subito. Polizia Orso sta aspettando e che gli agenti vengono da in Africa. Perché ci siamo sempre qui, che venite in fuori, venite fate coglioni a tutti quanti conoscendo. Aio, aio anche Gabriele Autun. Veniamo giù, veniamo, aio, non avete però capito. Ciao, eccolo Barbara Gnani, è arrivato subito. Salum, venite qua, c'è Barbara Gnani. C'è qualcuno in PMR? C'è qualcuno su PMR? Attento Graziano, sono tutti muti gente. Metta manica di muti, mi bobo. C'è qualcuno risuscitato? Avanti, chi è? Grazia, tu sì. Chi è, Grazia? Fatta vera citati. Ciao Giulio. Sono come mezz'ora già mendi, ma tu sei sempre tormenti. Ah, oh, stavo facendo una cosa, ma se non è a posto dei colli del medico. Io che lo ricontrollo anche. Oh, tutto bene andato? Esatto, meglio, va. Ho capito, grazie. Meglio così, dai, interessante è tirare avanti. Poi, Tommy, stavo parlando con Macchisio in 27 adesso, però lui era col portate vino e mi arrivava troppo basso, non capivo quello che diceva, capivo poco, dai. Adesso mi ha detto aspettare, forse sta preparando l'altra antenna, perché era con l'antennino. Infatti non. Ma io ieri sera lo stesso, sono salito 4 volte, sono salito. Ho acceso, ho controllato se c'era qualcuno, non c'è nessuno. E allora me ne scendevo di nuovo giù. Cosa mi rimanevo qua a sentire che cosa? Il rumore del QRM. Oi, se non va nessuno, va nessuno. Adesso stasera ho provato anche con l'applicazione Midland, non va nessuno, disastri, boh, tutti morti. Oi! Avanti, su mese di aprile, mese di dicembre, la gente magari qualche cosetta è già portata, la capisco, queste cose luci. Vabbè, no, io sono andato stamattina alle 11, perché ce l'aveva la 1, la visita di controllo, e mi sono condurrato verso... Verso le 2:30, là, da avviso. E niente, cosa vuoi? Ui, per carità. Ho capito, grazie. Ma ti sei fatto accompagnare o hai guidato tu, hai guidato? No, con mia figlia, no. Ho risalito a portargli i documenti. Sì, la domanda di Nora. Ah, ha già compreso. Vabbè, grazie. Infatti, no, ma che mi credi che ti era azzardato ad andare a Zura, amico? Queste cose farli sempre, farti accompagnare sempre per queste cose, no? Non andare mai da solo. Va bene, va bene. Comunque, sono contento che stai migliorando un po', dai. Così almeno. Allora non esagerare, mi fanno andare a buddarti, non ti vai tu. E da voi magari ti puoi sentire male. Sai che mangiare sì, ma senza buddarti, come ti siamo abituati a fare. Oh, il mio, ti credi che io mangio un pesce? Cosa? Non di capota, cazzo, però all'assaggio, a buddarmi non mi abbutto. E poi da solo, dalla ragione non mi butto il cibo. Forse che mi intendi amare. Già mi sono fatto di tre infarti, solo non fa uscire, capito? E niente. E guardi, se imbecille li dovevo pulire, torna le tre visite voleva, per segnarmi la patente. E così dovevo sborsare di là, no, hai comprato chi pulire le visite, non dalla ASL, le voleva a pagamento. Se non si manda la mazzola, amico. Veramente non siete più. Ehi, vabbè, dai. Vabbè, non ti siete più, dai, dico che non ti siete più. Ma tu devi solo camminare a piedi, piano piano, passo passo, è sempre andando, però. Poi, ma quando devo andare lontano, ti vuoi accompagnare. Già vedrai la famiglia che ti accompagna. Dunque, che problemi vai? A tutti i giorni, grazie. Vabbè, di burro, cosa vuoi? A un certo momento vale burro un po' di ragione, se vogliamo, perché una persona che non è proprio in condizioni efficienti, è ovvio che la patente è un po' difficile a ottenirla. E di burro va nella sua responsabilità, Tu mi avrai detto, ma io non è che ando a fare un'acqua, non si sa, forse poca strada, eccetera. Hai ragione, ma vedi, non la pensano così. Hai permesso? Ehi, siamo qua! Tu sei Sara! Ma che ha fatto il pacchi lei? Il patente! Cazzo se la pigliate, non si la pigliate! Pesci il patente! Ma già è sempre in tempo! Paolo, sei sempre in tempo, sì! Mi non vedo il problema! Ti siedi e te lo piglia la patente, cos'è? Mi per pure la cola guida per pure uno che butti, se che ti vieni pure la bette, vieni, no, non ho problemi. E così a Romaco, tanto quando decidi ci ti sei pompare, se che i problemi vi sono. E chi sono? È una comunità, un attimo va chi. Che ho preso Paolo, dunque ti conviene di farlo, vai a tentare una volta, prova e te la pigli che ti prende la patente. Vai, non ti dici cose che non è vero, che magari qui sono migliori di te, cosa mi si dice? Va, avanti per chi? Intesa è Graziano, va? Yeah, buonasera Giulio, buonasera Graziano, anche a Paoletta, l'ho sentito sul fondo. Anda bene, guarda il 23 se mi ascolti giù. No, ma dai, già aumento il volume, intanto è acceso, aumento il volume, già acceso, già ho aumentato, prova. Prova Bacchì, te lo dico io che te lo dico Bolinghità, prova Bacchisio. Tu adesso. E io già ti sento, a te già ti sento, grazie. A Bacchisio io non ritengo il 27. E non fino alla radio manna, cosa bisogna dire? Tratta chi si tratta, con l'antenna quanto si tocca e basta, detto non la può trattare con l'antennino, no? Ma chi? Chi se la poscia butti la petto la pressione? La petto la pressione la poscia, avanti di teso, ma chi tu sì? Ah, pensavo che... Ciao Tore, con Graziano in PMR e con Bacchisio. Ma Bacchisio sta facendo la prova. Ma Tito Graziano dice che sta a posto, lo va a chiuso e te la metto la pressione, vero? E va bene, dai. Avanti, Graziano. Ehi, ehi, atto. Sì, va vedendo, Rasura. Okay. Rasura, ciao, Fra. No, sono qua a vedere con Graziano. Con Tavolo, sono qua a vedere. Mi tenete in PMR? Non intendo qualcuno. Sono pacchissimo. Proprio non intende, ma chi sono ad esempio, Graziano ha detto che sta poi trovare chi per mettere la pressione, e pari su è. Ma chi, ah, Peter, ma chi c'è adesso ti sento, dai, ma chi c'è? Vabbè, c'è anche Tore, Graziano, Tore, c'è Tore Squalo, sì, e poi c'è anche Franco, avanti Graziano. In 27, e Tore Squalo sta parlando con Bacchisi in 27 adesso. Ah no, sono aspetta la 26. Vabbè, avanti Franco. Ehi, ehi. Vada a radio con qua Sada. Ciao Franco, a te che ti sento, a Tore non lo sento, ma se nella 27 ce l'ho spenta io la 27. Ah, ci ho compreso. Ma poi entravi, no, Vittorio, ma cosa dice fare? Il microfono che rimane capricci, oh, grazie. Grazie. Ehi, ehi, Capriccio ha detto che fa il microfono, ha detto che non funziona, dove ha detto così. Giustamente alla strada. Attacca la 27, grazie, dai, aiuto. Lampazzino BMR, attacca la 27. No, ma va tu a parità, tanto io non vi hanno piatto con 26. No, adesso non attacca, già sta. E poi la verità non ha giurato. Oh, io mi sta passando qui. Mi sta passando qui. Mi ha attaccato la bolla. Sono passata la bolla. Ah, ti ho preso. Ecco, però non mi ha mandato qui da fare, mi avevi detto due al microfono. Che mi mandavi l'usito cinese. Non te ne sei più aumentato. Attenzione, mi sa bene quello del cerpugliatore, se mi taglia anche. Attento, mi attento. Quando vende da fare per un tagare un piano rotto, non si andasse a capo qualche cosa. Oh, già, quando viene già glielo chiedo. E poi io glielo chiedo. Ti ho preso. Franco, ma sei passato là, Franco? Cos'è? Ho chiesto che sei passato là, sei passato. Graziano non può passare là. Non ha gana di attaccare lo baracchino. Ma io non lo sento, cosa vi trova qua? Ah già, è vero, giuro, intendi. Graziano ti intendi in bordo a piombo, buro tutti i buoni a piombo, beh. Possibile che non riusciamo a far sentire sempre, sempre. È meglio va sentendo sempre. Grazie a Pone durante il Nino e lampade lu mantenino per lui, lampazio. Salutalo da parte mia, io già lo sento. Ma non verrebbe l'ultima, ma già lo sento. E già lo so che tu lo senti, Franco ti saluta Graziano. E già lo so che tu lo senti, è un credo che lo intendi, capita? Posa di no che vicino a me, è pari su che lo intendi. Sei tu che non parli a Susu. Ehi, io già arrivo. Se l'altro giorno stavo parlando con questo, con Franco. Oggi vuol dire c'è tempo non più. Aspetta un attimo, Grazia. Ehi, vai, già sto di noi. Ha detto che, Grazia, ha detto che mi piace la pizza capricciosa, Edu. Agattore. Ehi, pure a me mi piace la capricciosa. E allora? No, dici che il microfono non funziona, che non accende lo spioncino ruio, dici. E c'è che non funziona. Boh. Basta evidenza, BMR, boh. Ma si guarda il microfono che non funziona, chi la sai vuoi di tacca suo figlio? Prima o poi te la conta il buso, sicché tu devi punire la stazione vista, così a Roma non devi stare sempre di montagne. Fatti un angolo, capita, ti fai la stazione vista, così puoi far vedere in un luogo e in un altro contemporaneamente. Oh, sì. Quando faccio il tempo, io al posto. Si vedi la scrivania, li faccio il computer e lo baracchino, e poi la poco il naso, dossi, palettoni, fumanti, sono immersa e non si vede più. Gli subito è un luogo, ma lì sono la ciappi, invece mi ha punito una radiolina, baracchino non la ciappi, non lo so qui ora. Già sei poco di caso, a posto di panettoni andi, è a posto di dossi. Ah, chi se già la ciappa, lo barattone, ma attaccare un baracchino no, vera, non sa che non verrà mai in mezzo. Ciao Gia Maria, allora, che so che ne so con le aziende? Quando mai hai aspettato la ciappa, un angolo per punire il baracchino, ho visto. Belle, è la zaino. Ma è possibile, Gia Maria? Vito, dai, l'uno con il barattone l'ha avuto, ma punire il baracchino non la ciappa, te ne immaginerci. Allora si mangia il barattone, il baracchino deve essere a bassi. No, chi ne so, così è tutto sbaccato. Per carità. Vabbè, dai, ciao, ciao, so che l'ascolto, sto facendo cose, dai. Ciao, ciao, giù. Ciao, Gia Maria, ciao. Non so, Guio, no, non te la paghi, se non ne vogliamo fare né caccia né lana di chi ti graziamo, Allora, dimmi tu, per un panettone, ecco questa grazia, mangiati il panettone, poi il baracchino, se lo vuoi, dovete la scatola del panettone, e lo mettessi lungo, così a Romanco, la puoi poi far vedere. Adesso anche domani devi fare pure l'altro un'asta di Natale, così non fai più lungo. Vabbè, chi sono questa cosa, cosa venta? Già sta ciappa sempre un angolo in una casa per farla di Natale. Però sta attento, non ti mangiare i cioccolatini, che ha piccato moglie. Uno scattato di ambrovaggio. Stasera me l'ha mangiato un 3 o 4. Ah, intendi, 3 o 4, capita. A andare a parlare di Natale non ve ne so più, sto cattolando da comprare i cioccolatini. No, già di giù. Ne ho preso anche Augero stamattina, alle LED, e si buglia le biglietti, di biglietti. Ma i morceri ho preso. Quelli sono buoni. Hanno preso, sono i migliori, quelli sono buoni. Sono i più buoni, hanno preso. E non si sa. Perché c'è quella ciliegina a Trento. Quelli lì. Che sono con la ciliegia è un po' così, non so cos'è friglia, cosa mettere. Era un'offerta, ne ho preso due scatole in offerta, con gli sconti, Alghero però. Ha già compreso, hai fatto bene. Anche tu Maria non si sa, un po' tutto si compareggia. Siamo vicino a Natale, sì, dunque. Bisogna cominciare a organizzarsi, ma pure Antonella Bompuni è entrato mia, vai, mi senti. Ma ti mi dato pure un chilo di cioccolato, di chi tu fondente, chi tu dici, grosso tre dici. Intendi. Ma non sei ricato però, questa, uno ricompareggia così fa gusto, tanto va a vedere, però non è che li mangiano, non sei ricato, vero, grazie. No, al cioccolato dici chi fa di bene. Anche la Nutella c'era in offerta, quella imbalatolo grande, uno che sta mangiando un biliardo, mi pare che è un chilo. Capita, a chilo, a posto siamo, e andiamo via già. Vabbè. Sei stato che Paoletta della Baita frisciati in qualche calascio o in qualche sportello d'armadio, non te ne abbia fatto mangiare. Dai, Luigi, a pigliare. Ma fatto pigliare pure come si chiama? Le casatine, 10 più minuti e pezzi buffosi, ma di tanto la voi una lara pizzichi per trovare che mi ha fatto la mamma. Chi se sono buono, vabbè, chi se sono buono un bel, se i calciatini sono ben buoni, chi se piacciono pure a me un bel. Ma pure l'altro mi piace, chi se con un ricotto, come si chiama? Come si chiama? Chi se formagella, l'altra come si chiama? Non me la metto, boh. No, c'erano quelle formagelle, le ha prese, sono un pochettino più piccole, rotonde quasi, là. E belli atti, belli buffuti, belle abbrustolite sono sopra. Buone, cioè buone, io non ho divagliato, ma avete messo che sono buone. L'altro si chiama ricottelle, avevamo già commentato. Formagelle e ricottelle, chi si fa di ricotto sono ricottelle, chi si di calcio sono formagelle. Andate, già sono buoni tutti e due, io ho avuto. Se tu hai tre metà mi piace di più, le costelle che gli si forma che si colocaccio, mi piace di più. Forse perché sono più dolci, dai, forse che poi nello zucchero, eccetera. Già sono buone. No, ma non si a villaggio, rimani, ha fatto bullizzata, però non ne ho mangiato. Troppo dolci, se non mi grippo. Incredibile, ragazzi. Non è possibile, no, grazie. Andate. Intendo. Allora, beh, il Cucarani che dà per Bacchisio, Tore, Antonello e Franco di Sorso. Sempre un po' cattato, arrivi da niente, vabbè, ognuno va di cose sue da fare, dunque. Ma al manco rientrani, solo si entra un po' cattato, speriamo che entrano sempre però. Ma che ormai è diventata proprio un mortuglio, è diventata la 27. Boh, boh. Ma la cosa che io ce l'avevo accesa. Anche ieri ce l'avevo accesa. No, ieri si è mea, la partita mi pare che l'avevi accesa. La 27. E la preso tutti i palizzi. E la partita ieri ce l'avevo accesa. Allora mi ha spaccato pure un poco di castagna ed è pronta la cazzarola, ma pure la rubore. Intendi. pure la castagna è buona, è l'uguria. E a russo, a me mi piace a russo, è la verità. È buona pure la camaniera mia, pure dita pure fatta. A coso, ma normalmente quando si fa, perché io non so cucinare, ma tu io lo sai, comunque a Ruzzo è la Montesuglia, per me è buonissimo così. Ma chi c'è stata a me, a questa nocchia qui, da un signore che anda a Curilla e la presa da me, sta da Sant'Orso, non è castagna continentale, è castagna sacca. E metta, metta bianca, metta gattosa, brutta, metta fresca, fresca, ma una punta l'ha già avuto, una di una, amico. Meglio così, capita. È meglio così, se quando è punta la buia, come sta a se fea. Quando è sana, è così che andava bene. Allora, domani vedo fare il peso, perché sabato è festa, dunque, l'avremo domani, anziché fare la zappa. Domani mi comprai un bel porcettone, non porcettone, porcetto. Adesso è 90, l'ho mancato, bene. E da poi mi comprai un burro di gamberoni, o un PCL1, così cominciamo a preparare pure per andare. La pulimmo in frigo, impunimmo e così hanno manco. Anche se è l'ultimo momento, voi, è meglio andare sempre in anticipo. Io me la compro sempre prima, no, io già qualcosa l'ho comprata, il porchetto lo devo prendere, però non il figlio che calma ce l'hanno passato, un bel, da poi quando la cosa mi tocca andare la treccia a cinque, ma a chi si non si becchi la cosa, qua ci ha giocato l'hanno passato, chi sa non il figlio la metà. No, è cosa non mi dice, da poi devo usare. No. Vabbè, chi sia, è vero. Che sì, è vero, te lo mangi a colazione, burro, a merenda, così hanno mai quello consumi, no? Non è che te lo deve lampare, no? Tanto quello che cucina, vuoi te fare la pastino? Oh, i figli l'ho cucinato anche da poco, che ce l'avevo nel polsetto. Oh, quel maialino, il petto. La metà della metà ce n'era, e non l'ha cucinato, un mese passato l'ha cucinato. Come ti racconti, non avevo mangiato un paio di pezzi e là sono rimasto e là ti ho dovuto dare tutto quanto a me mi cucina, non è che ne mangi in massaggio uno. Io lo compro perché se viene gente, già se lo mangiano i ragazzi. Ma io quando ne assaggio un pezzo è tutto il frutto. Non è che se massa i magnoni uno, un frutto. Io un po' mi raggio ubriato. Una piovra male, e più altro di paoletta. Addirittura. E era già visto questa fotografia che mi hai mandato? No, era già comparato, una chetta abbassata, l'uni, una chetta abbassata, mi pare l'uni, sì. In punto d'orra, sono comprato alle bancarelle in punto d'orra. E dunque sono entrato in un negozio che sono conato, no? Che è in via delle Vigne, che sta zona anch'io. E era un po' il pubblico, proprio di butto d'ora, peccato anch'io. E l'ha già vedato, ma era buono, tenna, la verità. E più, io ando sempre anch'io a butto d'ora, e poi lo cucquedo, c'è uno di orsi che vende queste cose, no? Vende la gioca, il cucquedo, la bitula, burro. È rugacio, vende, un sacco di cose vende, pure Rubino vende, Rubino buono, visto di orsi, ma questo non mi interessa. E ho comprato il cucquetto e lo boi. Mi ricordo così da così, Maoletta, la settimana scorsa, mi la via la retina di una cucina. Però io non rimango, se la mangia dieta, mi migliora. La famiglia è un'amica di famiglia che vede la lì, già ce l'hanno mangiati, io non le mangio. No, era poi, è pieno il botto, doveva attaccare l'altro con i garacci, e chi sa caraccia va, chi è piena bocca. Oh, per carità, lo so che il macro la dice, ma che bottetto, cosa vi vuoi accuperare il suo, mi chiede sempre bene. Oh. Ma se vuoi dire la verità, il bottetto me l'abbiamo, un buono noi, lo primo è quello che dall'americano, no? Che domanda con il sportellone, eccetera, no? Già l'hai presente. E abbiamo pure un bossetto. Beh, allora ti dico una cosa, il bossetto noi l'avevamo escludato, ma cosa intanto era inutile. A che cosa cosa succedeva, Grazia? Ti dava una cosa e punire dentro il frigorifero, sempre in chili. E se che adesso che vedo, dentro il bossetto rimaneva sempre in chili, quando consumarlo, si bastava un sacco di tempo. Sai che fatto, ma noi siamo in poco, siamo in tre, eppure si vede qualcuno da cura, i parenti, eccetera. Già avevamo un frigorifero mano, cosa ti ne vai a tappi a la bossetta inutilmente. Casomai la cosa te la vediamo più frequente, ma è più fresca pure se vogliamo, no? Beh, quello sì. Vabbè, ma io questa ti faccio un piccino in casa, non tengo. Una volta che ti si andano le mie figliori, si rurappo da un terrazzo, cosa me ne fuo? Ma Paoletta ad avere un frigorifero e buco. E poi se me la compro fresca e anche vicino. Infatti che avevo l'abitudine di esagerare sempre, no, quella cosa. Così con la frutta, mi pranzura. Ho svegliato la frutta io. Ho svegliato, poi l'ho pigliato pure una migliore, l'ho pigliato la frutta. Se che è la truppa. Adesso questa è da sviare una serie di aranzo da rocco, no? Sviate. Beh, allora se ne abbiamo fatto tre, a che si troviamo offende. A che la compriamo una cosa, la buia, che andiamo a consumarla, non andrà bene, invece bisogna comprare. Manco, è più frequente magari, appena anche per dire, se consumiamo andiamo a comprare, così non se ne rampa. Ma se ne compriamo di lupo, tutta un'ora, arriva il momento che se ne rampa un poco, ma cosa, nel frattempo si guarda. Direi a chi non chiede, mi raggio la lampa. A vado male, allora si abbozzo con il salato. Tanto ha già visto che c'è ancora, prima si guaglia. Faccio la spremuta, lo faremo. E ma questa adesso ci lo vinci. Ehi, su Bugliardi, già si può fare così, ma se pari su. Noi ve l'avevamo già di chi si era confezionata in cartoni, no? Le bibite così e tutte tante le cose, e su quelle frutta e balle varie. Perché cosa di buone a fare la premuta? Comprende, comprando, di manco. Vuoi comprare due volte la ghetta, però non è utile comprarla per due ghetti, ad esempio, che quando consumarla se ne era un po' della metà, ma cosa si guarda. Ad esempio, una settimana ho comprato 25 gacchi mela, se puoi immaginare. Dopo ho comprato 7, 8, 40 manni, che d'ogni anno sono bisogno di mezzo chilo. Grazie, Napel, di sì. Napel, Washington. E poi ho comprato la mela Golden, ha giubilato. Quando sono arrivato a casa, poi quello me l'ha venuto come un'altra banca. E tu pensa che faccio una banca lunga 2 metri o 2 metri e 10? A me ne dirò, quando ho cominciato a depagli tutto, quando ho cominciato a depagli tutto, non me l'ha venuto come un'altra banca, gira. Ma poi si guarda, adesso io lì, un'altra banca per un comporta frutta e per mela, arance, mandarini, banane, pera, i nobili, sassino, l'altro bugnolo, rumatetti, caccomela, mandarini, funghi, antunna, peri, burghini, mela, insaveschi, e davvero mirizzani, ma oia! I carciofi ci sono in un secchio a muglio, i nostri garaggineggiano, per carità. Purtroppo così, siamo troppo esagerati a comprare della cosa. Se invece compare sì, mai che si manchia, mai, io sono giusto, che non si manchia mai. Però è meglio compararla più poco e più frequenti, così allora manco sai che la compareggi, la consumi e non sai rampato l'ordinario di bada. Ecco come ti conviene a fare. Invece noi siamo esagerati. E vabbè, dai, avremmo imparato, ma poi. Mi aspetto 5 minuti e poi rientro. Va bene, sono qua. Ehi, e beh Giulio. Vai, gufo triste. Oggi Giulieri, penso di sì. Sono penso, aspetta un attimo, grazie. E lo vedi, ti ho chiamato. Come mi hai chiamato? Sì, Franco, già lo so, sì. No, perché ieri c'era quel Gianni, l'amministratore, e c'erano un paio di persone che si sono lamentate, infatti lui aveva segnalato alla Midland e venivano bannati proprio per quel motivo lì. Lo so, sto parlando con Graziano anche in PMR perché c'era sentato un attimo e allora sono entrato di nuovo qua. Riprendi pure i bacchi, vai, ritorno a parlare con un congraziano che si era assentato un attimino. Vai Graziano. Eia, mi è entrato Luca, mal di gola, Già l'ho letto sul coso che gli ha mal di gola, Luca. Cosa? Che gli ha mal di gola, l'ho letto, mica c'è Giulio. Non lo so se mi ascolta, Giulio mi senti? Che c'è, Lucariello c'è. Lucariello sono, Lucariello che diciamo, campo. Grazie, Lucariello è. Ehi, non lo sento. No, non lo sento, e si vede che è nell'altra stanza, no. Non lo sento, no, lo grazia. Se non si mette, già lo sa lui dove si deve mettere, per sentirlo io, se no non lo sento. Luca, lo senti tu? Hai detto che non si sente. Sì, basso, ma già lo sento, dai. Aspetta, grazie, ti faccio il budino. E io sto controllando i fagiolini con le patate e insalata, che sono sul fuoco. Giulio ha detto che si sente basso, ma si sente. Lo so, se si mette in una posizione che non è buona, è chiaro che non sento io a lui e lui mi sente basso, ma è normale, no? Purtroppo è così, questa frequenza è maledetta per quel motivo lì. Infatti è per quello che bisogna cercare di usarla poco e niente, è meglio il baracchino direttamente, almeno non abbiamo problemi sappiamo che col baracchino ci sentiamo sempre, senza nessuna difficoltà da parte di nessuno. Ciao Luca, comunque, ma di ora sì, ieri ti ho visto che eri sintonizzato sul sistema a Midland, ma ero già di Giamavo, era un gruppo enorme. Ehi, c'è soltanto che è andato a fare il burino. No, io sono occupato di dire che non l'ho messo. Oh, so che sempre bene, Andrea, a sinistra. Beh, oggi la dimmi se volata. Proprio manco accorto oggi, ma nessuno. Guarda che ne hanno buttato fuori due mi oggi, perché avevano bisicciato. E la Midland li ha buttati fuori. Anche se cambi il numero di telefono, non ti fa più entrare, a quelli due non li fa più entrare, perché hanno parlato male, hanno bisticciato, eccetera, eccetera, lì con l'applicazione. In che non si buffoneggia, se uno si comporta male, subito c'è l'amministratore e vengono bannati tutti quanti, cioè tutti quelli che si comportano male. E fanno bene, è così che deve essere. E così imparano, invece vai, se vengono, i buoni va, buttateci fuori, perché hanno il numero di telefono. Ti chiudono la linea e non te ne fanno più figlia. Ehi, è arrivato bene. Se c'è qualche maleducato, già l'ho sentito l'altra volta, un tipo dicendo parolacce. Più di uno ce n'è. Infatti te lo sto dicendo, ieri stavano lamentando e c'era l'amministratore, c'erano quel Gianni, quando esce quella scritta rossa, quello lì è l'amministratore che sta parlando, che amministra questo sistema Midland. E se uno si comporta male, quello prende provvedimenti, ti prende il numero, intanto c'è un numero specifico e anche il numero di telefono, e dunque tu non c'entri più, in questo sistema di applicazione non c'entri più. Proprio perché? Per quel motivo lì. Perché si è comportato male. E ha fatto bene. Le parolacce si ritengono imbucciate. Vabbè, una ti può scappare, una, due, là. Ma se da voi cominciate le parolacce, apria! Cosa dici a fare? Così sputare il canale, l'ha fatto bene. Che poi ci sono certi canali che ci sono anche non vedenti. E una di buona di parolacci, no, andava. Infatti non andava, no, è ovvio. Infatti era uno lì, un po' di prepotente, che voleva andare così dall'altro. Hai capito come faccio? E invece lì, avanti, eliminati, tutti e due, aria e via, oggi mi hanno eliminati oggi. Infatti me l'ha detto anche poc'anzi Franco, che li hanno eliminati. Hanno fatto bene, così impara, avanti gli danni giudizio. Magari adesso vanno con i baracchini a rompere le palle nel baracchino. Appunto. Allora, grazie, bucati un angolino zecca d'inchive, e poi un baracchino sempre fisso, così a manco capita, noi siamo due in un luogo, due in l'altro, se buoniamo tutti in un luogo, così fermo una ruota più manna e ci dimettiamo di più. Lo vogliamo lì, no, che in cucina è l'angolo, da lì da rompensile, al fianco. Però non va bene a chi, per esempio, avanti, ha baciato la giornata in cucina e ha aperto la finestra, perché anche se c'è la cappa accesa, sta bollendo la pietra, fa il vapore e si appannano i bruni freschi e si infonde gli sportelli della cucina che va sopra, no? E allora ha aperto la finestra. E so così venne, si para l'umido, l'umidità e l'immola, e me la ruinisce, è per quello che non è buono. E molto ci vuole a farti una casettina. Una casettina, incorporato tutto dentro, l'alimentatore e il baracchino. E lo ti vuole la maniglia, pide, come se prendiamo una borsa, no? E quando lo devi attaccare, lo fai altro, solo attacca solo l'antenna, boh, basta. E sai di vuoi fare così. Una bellissima casettina, piccolina, fatta tutta come si deve. Che fa anche da soprammobile, lo puoi fare così. Io l'avevo una volta costruito, anzi c'era anche l'autoradio, l'avevo costruita e poi me l'avevo venduto, me l'avevo dato anche sul calzolaggio buzzinoso che sta vicino a casa tua, anche in coso, da lei da Gio Maria, dai. vicino a Antonio Bombolo, aiutate. Solo che la buia ha cominciato a fare imbecille, ha cominciato e stanno, l'avevamo eliminato, infatti non è più entrato. Ma com'è, l'ha bruciato e non è più entrato. Ehi, cagaglia, si chiama il soprano, già lo conosco. Ma è tutto un altro. Oh, yeah. E vedi, il periodo primavera è stato, lo posso mettere lì. Su veranda, ho messo un mobile adesso lì, a quattro sportelli, un mobile in tutto il legno, in massello. Mi ha riporto, ha detto, oh, se pongono i ferri, che si va poi su un carrellino che fa. Invece ce li ha messi, sì, però con i contenitori fanno rovinare il mobile, capito? Però in primavera è estate. Lo posso appoggiare lì sul ripiano che è abbastanza grande, capito? Ho capito, sì. Ma se fa una cassettina di protezione, proprio, che fa da soprammobile anche. Se vuoi della vostra EU, tu a me mi dai le misure della vostra EU, della vostra, mi vedi un paio di, qualche foglio di multistrati, non foglio, bezzi che li vendono da cosa, come si chiama, da bricome. Ho comprato un'unità mania, ho fatto due sportellini per la cacciata del contatore, ho pagato 7 euro appena lì su, ed è della lungo, un metro, no, non un metro, è pietra. 80 per 60 mi pareva, o un metro per 60, ma non me la metto bene, ma forse era un metro per 60. E ti pagato 7, 8 euro quasi, 7,99. Ma lo sai se anche il fatto che in quell'angolo dove io te lo volevo mettere, paletta che anda a piccare i denti, sono a soppalto, sono più distanti dalla finestra, e andano a cadere proprio in mezzo a che sangue, e mi dà fastidio, capi? E anche per quello che va, me lo voglio fare da un repostiglio, mi sta appoggio, non vorrà mi crolli, un carrellino di là, frutta, verdura, che pare garage, è un altro mobiletto che va, va sentata, frutta, un cestino di frutta, ma ha occupato giusto un rucco. Insomma, da fottito, l'ha già compreso. Paolo, lasciatelo mettere in un angolo questo baracchino, anche tu Sant'Ommo, perché se no cosa succede? Succede che da voi non ne fa vedere più sul baracchino, ogni tanto quello BMR e ogni tanto quello baracchino, invece se va la stazione vista, Luciano manco attendi uno e attendi l'altro, e senza problemi, vabbè dai. Già te pongo buon baraulio, grazie, non ti preoccupare. Allora mi ha detto da Bongo, cammina così in carriera e sta scrivania, mi vai computer, baracchino, chi sa il cadre a Ginevole, lampada di tutto, mi ha detto. A trago campiano. Ma io vado. E vado semplicemente un tavolino di chi si della televisione, dai, quanto di. E vado butto in chi. Dunque, no, non da fastidio, in un angolo fermo, tranquillo e pacifico, anzi sopra è pure la televisione, si può immaginare. E dunque non fastidio non me ne dà, si fa cos'è in l'angolo. Vabbè, se dai che muovo di aria ferma, gli lo sai, se lo vuole qui fuori, se vuole qui tutta la mondezza, ma. E te pare che scusi, la mondo è una cosa che faccio, una cosa che mi piace, no? Non andrà bene così. Cazzo, mi sta fatto così, il piano rosso, la cristalliera che ha già pagato una vacca di vina che tutta in legno, in massello, color noce, e bedaburu, cazzo come intendi. E la cittura di Remo balavare a Bongo a Uccia anche il suo mobile nuovo che sta pigliando e lo si fanno ruboni di lungo di così e rimane 39 che no, così si lavora e compri, mi sono fatta così in carriera e non viene rotto. Ma stai dando uno strato, allora fra un po' che ti fa pulire un lettino e ti porta pure a te i chivivi. No, ma fitto, cacca di, la riverrò per il cancer, ti porto un uretto, un baloletto, i salone tutti i gocchi che dà, così mi ha detto. Non è possibile. Allora, lascialo fare, trattalo bene, ragazziano. C'è una buffonemmo, grazie. Non è possibile. Vabbè, dai. Poi ti che sta tenendo lo spazio, vediamo piano. E lei la dicerò, fermo così, mi si fa la garage e mi porto una villetta. Mi porto un soppalto, la camera da letto e il giorno mi porto la cucina con un salone e un bagno mi porto. Ma non ti lo vivi a toccarmi la serranda, E la macchina andrà buona in carriera, non conviene pure la macchina in carriera in questa zona, no? Oh. Allora sarà basculante la bomba, se c'è anche il posto alto lì di fronte alla serranda, e lì mi la bomba. Ah, allora sì, allora gli andrà bene, caspita, non è possibile. Ehi, vabbè, dai. Sa che tu la devi vedere alla buona, quando è alla buona, dimmi, adesso mi metto il baracchino qua, e vorrei vedere dietro la gabunita, e così rimane sempre fisso. Ma se tu stai capendo, è logico che ti di occupare da tutto il luogo, no? E invece se tu lo occupi un bersaletto, che si sa che vedi che è occupato, non fai passare più in chimio, hai compreso? Si cazzo mi vede che faccio un marchetto, manda un inciudizio, qualche cosa, o un dramma. L'ombra presenti mi dà. Mi lascia la rete a vedere cosa sto cantando a fa. Non è possibile. E tu me lo dici, no, sto facendo un bel lavoretto per casa, tu gli dici sì, e sei contenta. E allora? Allora, sai, ma dici che sta gli andando nel bagno, mi pare che tu friazzelli in terra, e dico, no, la gliana non è friazzelli in terra, la gliana è giusta. Poi ti vai che cosa sotto la gliana. Allora, la gliana friazzeggia in terra, ma cosa sei lì? Poi di sotto vai che cosa attaccato. Piglia un coltello e passaglielo sotto a voi. Già posso sedere. Quando entro, magari da carriera, come si attacca la sabbietta lì a rivolti, entro in casa ed ecco che tra le ciampe in chivi, e si può attaccare la buia alla gianna quando la apri a rasare, certo, infatti con un coltello, passo un coltello sotto e ne lo cavi, lo che fa, così, no, se no che fece un rumattone la buia, è feo, così non andava bene. Invece piglio un coltello, ti incini, ne cavi la sabbietta o che so che fa sotto, e il mattone si sai fa. Ma secondo te io non ti piace tutta la gianna, che ho preso una pazzina e più in un'altra. E tu fa una cosa, tagliami 15 centimetri d'aria, tagliami dalla gianna sotto, così non manco lo toccami qui in terra, e non ti sei niente. L'altra volta mi ha detto basta un'aria dagli italiani del bagno e l'aria per tutti gli anni sotto bassa, ma poi mica per il spazzolino e l'inchiesa d'ingresso per lo spazzolino, ma gli anni interni sotto non finito e se poi lo spazzolino pure gli anni interni la giusto e l'aria è logico che passa, è meglio che circoleggia l'aria, no? Beh, sì, è vero, meglio che circoleggia, però si può pure evitarmi, a chi vendemi una cosa che è a pulsante, no? Vanno un incrastro tutto lungo in tutta canta la gialla, canta larga, 80 centimetri, va un incrastro tutto lungo e se si incascia dentro, se si incascia, Gandosar, beh, un pulsante lo bianco di Laiana, no? Il telaio, come te sai, Laiana si impigna questo pulsante e ne fa la spazzola di gomma a terra, proprio bella sensita. Ma è un travaglio da fare, devo... Innanzitutto mi vuole la macchina per fare in classe, se no come ti fai? Non è possibile. Costa pure un po' caretto questa applicazione. Mi pare che allunga un metro e poi si dà a misura, si dà, già compreso. Già lo so, è come nel portoncino blindato, al lato, o nella battuta del portoncino. C'è un pulsantino, quando chiudo abbasso il portoncino, mano a mano che si appoggia si abbassa lo spazzolino che c'è. Già lo so, ma mica mi pongo a fare lì sul travaglio negli anni di 31 gas. Già rimane così, già fa di bell'aria che circoleggia in basso. Azzetta, boh, mi trova in camera da letto a me, l'aria da ripresi di la corrente, vicino a Ruretto, a destra e a sinistra. E non me ne ero mai avvisato, la rimicina ti dia il cane, ma il cane da non c'è, né noi era dalla brezza. Ma dai, che te non mi ha intesa? Ma come ti pazienta? Ma te ne era buccato, ti vuoi ancora? Non è possibile. Come ti pazienta l'aria della brezza corrente? A chi la camera d'aria gli viene, ma è bionda, non v'è nulla, non v'è né pannelli, non ce n'è solamente, se la camera d'aria è bionda. Allora io cosa ho fatto? Ho fatto un buchetto alla scatoletta, no? l'ho svitata, l'ho presa, ho fatto un buco con la punta del trapano, ho preso la schiuma e ci ho messo la schiuma. Adesso aria non ne faccio più perché all'interno si è gonfiata tutta la schiuma, capito? E l'ha tappata a rumuru la scatola. Da lì passava, non c'è né dentro nella camera d'aria di né lana vetro né pannelli, isolamento non ne hanno messo. Ah, così è, non è possibile, capito? Ma come ti hai fatto tu a individuare che c'è l'aria al coso, nonostante che viene la brisa? Come ti hai fatto? Tanto sei butto la mano vicino, sei butto. E ti sei avvisato che viene l'aria. No, la di chi pure ne rimasti scoppa in camera da letto, i nuovi, in ceramica, che va più che si legna. E ha giù così pure a chi ci hanno questi animaletti argentati. Più una passava e finisce, allora ci stavano i tratti tutti su basso scoppa di legna e me lo pongo in cerato. Da lì il giorno che rinchinato lì sentivo quest'aria mi arrivi a faccia dalla brisa. Ah, già compreso, sì. Infatti hai ragione, è vero, 32 altri scoppa che sono mari che nascono soprattutto tramite l'umido, ma pure il vapore che si crea dentro casa. E la guerra soia proprio questo, dalle batterscoppa, infatti. Le batterscoppa da sotto, basta, via, che sono talmente fini, stanno maletti, che crescono e nascono in chivi. E mangiano il regno, mangiano il babilo, queste cose così mangiano. Sicché a voi da alimentarsi. Non è possibile, grazie. Me ne sono accorto il giorno che stavo facendo il battiscopo. Allora gli ho pigliato la schiuma, la bricco me, due boccetti, e ho fatto un buco con la punta del trapano nella scatolina, no? A chi è bionda da lì. Praticamente la scatola è mantisa solo da rintona che è mantisa. A chi tutto intorno ci metti io non aggiungo. E la mattesa la scatola da rumore e da rimattoni e l'intona qui su un centimetro e mezzo che fa, copri. Allora gli ho spostato questa schiuma, quando si è allargata la cuffaccata la scatola all'indretto, all'esterno però. E già non è fatta adesso. Senti, se hai buttato la schiuma più poliuretanica e lo grillo ne basta. Chissà se gilleggia adesso, gilleggia voglia. È un materiale buono questo, veramente. Sì, beh, si può imbiattare pure gli anni solo con la schiuma, volendo. pone dei gozzi buoni e pone la schiuma. Non, ma che la manco vidimi, non li sei taccano. E poco lo mantiene, ma mantiene davvero un bel mi. Tu pensa che verrà giù io, le bersiane in casa che sono glutelaio, no? Io sono 15 anni attaccati con la schiuma. Non si molla niente, manco bisogno. Anzi, se ne devo dimontare devi entrare un seghetto per tagliare la schiuma, se no non potrei riuscire a dimontarla. Io le finestre che mi ho messo in salone, in camera da letto, l'ho posizionati, l'ho cugnati, ci ho messo la schiuma tutti in giro, e poi quattro vicine li ho messo lo stesso, due a destra, due a sinistra. Poi l'ho tagliata con una lanella, tutta quella che pure usciva la schiuma, e ci ho messo il compressivo. E poi lei andava. Io credo che andava, ma beh, vero però, no, buffonendo, andava a vero. No, è un buon materiale questo, cozza è, anche la schiuma cozza. Però ti riserva un bel, tutta l'aria ti tappa, tu in gamba veramente. No, non vedo dubbi. No, è un buonissimo materiale, veramente. E così è. Vabbè, dai. Lo trovo con quattro, so già. Capita, io credo che l'ho chiesto. Aspetta un attimo, anzi dai, adesso chiudo, Giulio, sono le 8:15. Vabbè dai, ce la sentiamo, a domani, buon proseguimento, se coincide domani sera, essendo la 27, dai. Ciao Giulio, alla prossima, buona cena e buon tutto, se passi di là salutami quei pellegrini, ciao. Ok, ciao, grazie, ciao. Grazie della chiacchierata, a domani, dai, ci sentiamo. Salute Napoletta, alle prossime, ciao, ciao, grazie, buona cena. Ciao Gufo! Ciao Giulio! Ciao Luca, se sei in ascolto! Sì, sto salutando, ciao Paolo! A domani! Anche Sansone, dai, da parte mia! Anche da parte mia, ciao! A domani! Ok, ciao, ciao di nuovo, ciao. Sì, ciao, ciao, buonanotte.